al sacrificio. È vero. Ora, sacri ministri, la vittima prendete, e voi custodi dall'amico infelice, dividete colui. Barbari, ma voi avete dal mio seno spento il cor mio.